Europa 24. Stamattina sono arrivate le parole del presidente dell'Eurogruppo Dijsselbloem. L'Eurozona si sta muovendo verso l'uscita dalla crisi, la crescita economica sta aumentando gradualmente, negli Stati Uniti si sta gradualmente indebolendo. Per questo non è giustificato un umore come se ci si trovasse in piena crisi. Dijsselbloem invita a non farsi prendere dalla psicologia della paura a fronte della recente turbolenza nei mercati finanziari. Le parole di Dijsselbloem nel giorno del Consiglio europeo dedicato al negoziato fra UE e Regno Unito e all'emergenza migranti. Sono abbastanza fiducioso che ci sarà un accordo con la Gran Bretagna. Credo che avrà un ruolo collaborativo e costruttivo all'interno dell'Unione, ha detto il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, a cui non piacciono le misure prese dall'Austria sui controlli ai confini. La questione, ha detto, è vedere se sono in linea con le regole europee. Vi è non poca incertezza sull'esito del vertice europeo di oggi e domani. Sul tavolo il futuro della Gran Bretagna nell'Unione Europea, ma anche la risposta comunitaria all'emergenza provocata dall'arrivo di migliaia di rifugiati dal vicino Oriente. Sul fronte inglese i negoziati continuano in queste ore per ridefinire la relazione tra Londra e Bruxelles. Ai leader spetterà decidere gli aspetti più controversi, tra cui la sospensione per non più di 4 anni dei benefici previdenziali concessi ai cittadini europei residenti in Gran Bretagna. Un altro nodo riguarda il rapporto tra l'Inghilterra e la zona euro, un aspetto delicato vista la forte presenza di banche europee a Londra. Sul versante immigrazione, il vertice rischia di essere interlocutorio. I 28 dovrebbero ribadire gli impegni già presi, incapaci per ora di scegliere vie più coraggiose e impegnative. La stessa redistribuzione di 160.000 migranti arrivati in Italia e in Grecia va drammaticamente a rilento. Il governo italiano vorrà insistere su scelte più comunitarie, ma il tema è avvelenato in molte capitali. I governanti sono stretti tra la consapevolezza che una soluzione richieda solidarietà europea e la paura di preoccupare le frangi più deboli della popolazione. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Visti i dati recenti deludenti, l'OCSE rivede al ribasso le stime per la crescita mondiale al 3% per il 2016, 3,3% per il 2017, 0,3 punti in meno rispetto a quanto previsto a novembre. Ritocco negativo anche per le stime dell'Eurozona e per il PIL italiano. L'Europa deve accelerare il suo processo di integrazione e parlare con una sola voce, avverte l'OCSE, secondo cui una preoccupazione cruciale è che l'area euro resti intrappolata nella bassa crescita e in una dinamica di bassa inflazione, mentre il clima di fiducia resta troppo debole per innescare una ripartenza degli investimenti. Troppi antibiotici agli animali, bisogna ridurre, è questione anche di salute pubblica, così ieri il Parlamento europeo. I batteri sono sempre più resistenti agli antibiotici veterinari attuali e questo può tradursi in un pericolo di salute pubblica. Bisogna quindi intervenire, riducendone l'uso, sostiene la Commissione Ambiente e Salute Pubblica del Parlamento europeo nella bozza di aggiornamento della disciplina sui medicinali veterinari approvata a stragrande maggioranza mercoledì, 60 voti contro 2. In particolare, dicono gli europarlamentari, vanno banditi trattamenti antibiotici collettivi e preventivi. François Grostet è la relatrice del provvedimento. Se l'animale è malato, dice, va isolato per curarlo, ma anche per evitare di dover somministrare antibiotici a tutti gli altri animali. E poi attenzione agli allevamenti troppo densi e con scarsa varietà genetica. È più sicuro diversificare, dicono gli europarlamentari, ad allevatori e proprietari. Il testo votato dalla Commissione suggerisce che si stabilisca di riservare alcuni antibiotici al trattamento degli esseri umani e che venga incentivata e protetta la ricerca sugli antimicrobici. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Ed è tutto per Europa 24. Un saluto da Maria Piera Ceci. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.